140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. I muri di Berlino, dopo il premio della critica tra i giovani a Sanremo, il nuovo album di Maldestro. Oh, per me è stato un festival bellissimo, l'ho vissuto in modo sereno, con tranquillità, come se tutto fosse un gioco. Anzi, in quella settimana ero così rilassato che tutti mi guardavano strano. In realtà il lavoro duro è arrivato dopo, con il ritorno al lavoro del disco. Se la prendi come un gioco, io ho avuto insomma questa capacità di staccarmene di un centimetro per godermi tutto e non entrare in un vortice, ma di vivermelo bene. Devo dire la verità, è un'esperienza che mi porto dietro e se dovessi rifarlo lo rifarei con tanto amore. Ma tu strade, lasciando che tutto si muova, ma tu respira, respira, non chiudere gli occhi, sul buio della notte. Vieni da una terra ricca, difficile. Che cosa c'è in te e nel tuo modo di scrivere, anche se scrivi d'amore, anche se scrivi di altri argomenti? Ti lascia un'impronta la realtà da cui vieni? Ma sicuramente, ma credo che la lasci a chiunque, pure chi nasce a Parigi o a Boston. Insomma, il luogo da dove vieni, nel bene e nel male, ti segna, te lo porti dentro e ti influisce sui rapporti interpersonali, nel tuo lavoro, anche se cerchi di oltrepassarlo, anche se cerchi di andare oltre al posto dove vieni, è inevitabile che te lo porti addosso e te lo porti nel tuo lavoro, pure quindi nella composizione, nel modo di fare. Credo sia una cosa naturale e inevitabile. Però i muri non sono di Napoli, sono di Berlino, quelli del titolo dell'album. Perché i muri di Berlino? Perché sono i muri che in testa a me, ovviamente, sono i muri che ho dentro di me e che credo ci siano in alcuni di noi, forse in tutte le persone. Infatti non è il muro di Berlino, ma i muri di Berlino, proprio per questo motivo. Nel disco cerco di raccontare i sentimenti dell'uomo, quelli più semplici, quelli quotidiani, giorno dopo giorno, attraverso la noia, il dolore, la gioia, insomma i treni persi. Berlino, il muro di Berlino per due motivi. Berlino perché evoca quel tipo di muro, quel tipo di, insomma, di divisione, e poi perché sono stato a Berlino, è una città che mi è rimasta dentro, e oltre a quei pochi muri rimasti per ricordare quelle tragedie, ci sono altri muri altrettanto belli, più belli di quelli, dove le persone hanno disegnato sopra, ci disegnano ancora, perché sperano in un futuro migliore e sperano che quello che hanno vissuto non avverrà più. Abbi cura di te, abbi cura di te, origliando l'amore, abbi cura di tutte le cose, anche di quelle che fanno il dolore. Abbi cura di te, abbi cura di te, fino all'ultimo giorno, fino a che questa strada si spenga senza fare ritorno. Ama l'insonnia che fissa i tuoi occhi dal blu della stanza. Dedichi tutto a una persona sola, cioè la dedica è una sola, Claudio Nasti, l'uomo che anticipò il futuro. Sì, Claudio Nasti è una persona straordinaria, fondamentale nella mia vita, è stato un mio insegnante alle scuole medie. Da allora è la persona a cui tu devi di più? A parte mia mamma, insomma, a parte la famiglia mia mamma e mia sorella, insomma, Claudio Nasti è una persona fondamentale. Lui poteva fare tutto nella vita, tranne l'insegnante, se visto dalle istituzioni, se vogliamo dare una... Perché lui, se gli chiedevi, Claudio, ma che con 47 diviso 3? Lui ti guarda e dice, ma che lo chiedi a me? Che ne so io. Però se gli chiedevi i valori della vita, se gli chiedevi cos'è l'amore, cosa sono i sentimenti, cos'è la strada, lui ti spiegava tutto e te la faceva vivere. Ed è stato il primo uomo a credere in me, perché a 12 anni lui mi portava, quando io non volevo studiare, ero un po' terribile a scuola, lui mi portava in aula magna, mi separava dagli altri, io dicevo voglio scrivere canzoni, lui diceva vieni con me, prendevamo il caffè, fumavamo insieme sigarette e mi faceva scrivere le canzoni. E gli altri, nessuno credeva in me, pensavano tutti io diventassi qualcosa di brutto perché ero molto terribile, invece lui ha sempre visto quello che poi è venuto fuori. L'insegnante ha il potere di migliorare e di peggiorare la vita di un alunno. Quindi tra il diventare qualcosa di brutto e il diventare qualcosa di bello, il confine è delicatissimo, quindi basta poco. Basta poco, però se attorno a te hai persone che fanno venire fuori la tua parte, dicono guarda tu sei questo, ti danno gli strumenti, mia mamma mi ha dato gli strumenti a 9 anni, mi ha dato un pianoforte e un computer, e da là io ho capito che c'era un mondo pazzesco oltre il mio quartiere. Quindi da soli non si va mai da nessuna parte. Ho sempre saputo che da grande io volevo fare arte, in qualsiasi modo, anche disegnare sui muri cose senza senso, ma quella era la mia strada e insomma la sto percorrendo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Maldestro. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.